étranger reindeer. Lucie, Suzine, just be enchanté. Happy to see you, live or to stay. Welcome and bienvenue, welcome in cabaret, oh cabaret, to cabaret. Puntata questa dedicata a Iannacci. Praticamente si era conclusa la puntata precedente con il discorso della collaborazione con Fo nelle canzoni elencate nel disco 22 canzoni, quello spettacolo teatrale che rappresenta il vertice, diciamo, della collaborazione con Fo. Già però si cominciavano a rilevare alcune differenze. Una fondamentale era, e l'abbiamo rilevato anche nella puntata precedente, la maggior politicizzazione del discorso di Fo. Ad esempio, nella canzone Vengo anch'io, noto no, che fu poi quella che portò a successo Iannacci, ci furono due versioni. Una, quella che tutti conosciamo e che fu praticamente cantata per ogni dove. L'altra, quella di Fo, che conteneva tra l'altro dei versi di questo genere. Dice: si potrebbe andare tutti insieme nei mercenari. Vengo anch'io, no, tu no. Giù nel Congo da Mobutu a farci arruolare, poi sparare contro i neri col mitragliatore. Ogni testa danno un soldo per la civiltà. Vengo anch'io, ritornello. Si potrebbe andare tutti in Belgio nelle miniere. Vengo anch'io, no, tu no. A provare che succede se scoppia il grisù, venir fuori bei cadaveri con gli ascensori fatti su nella bandiera del tricolore. È evidente che questo tipo di testi sono estremamente più legati ad una certa attualità e a Fo del poveraccio, dello sfigato per eccellenza che grida vengo anch'io e viene respinto, non interessa più niente. Il discorso invece inclina verso l'ideologia e per di più in versione macabra, dice Manfredi nella sua introduzione al libro di Iannacci, e quello che grida vengo anch'io è tout court un cretino cronico, visto che vuole arruolarsi coi mercenari o morire in miniera. Per di più l'inserimento del fatto politico della storia e della cronaca rende già in partenza vecchissima la canzone, ineseguibile fuori dal momento, misero francobollo su tragedie storiche che non hanno bisogno di essere impostate. Il personaggio di Fo somiglia al cretino di una barzelletta che si raccontava allora. Uno ha un fratello scemo che lo segue ovunque vada, cerca più volte di seminarlo, ma lo scemo è sempre lì col suo vengo anch'io, finché un giorno, per l'ennesima volta, lo scemo chiede al fratello «Dove vai?». Al che il fratello, ai limiti della sopportazione, risponde «A fare in culo». Lo scemo replica «Ah, allora ci vediamo dopo». Non so se Fo avesse presente questa tragica barzelletta, non certo un modello di progressismo, però è indubbio che il suo personaggio somiglia parecchio a quello del fratello Semo. Tra l'altro, a non accettarlo tra i mercenari o in miniere gli fanno un favore. Il personaggio di cui canta Enzo è invece un vero personaggio collettivo, ci riguarda tutti. È uno che vorrebbe inserirsi, comportarsi come gli altri, essere tra gli amici miei, partecipare a qualsiasi goliardata, esserci tanto per esserci. Ed è respinto, senza motivo, solo per il fatto che ogni compagnia presuppone e impone un escluso. Ogni divertimento implica uno di cui si ride, ma che non deve ridere. Neppure nel mondo dell'odio reciproco, luogo reale delle compagnie, c'è posto per lui, neppure al suo funerale è gradito. Mobutu e il Belgio non sono altro che una rimozione ideologica del vero oggetto e soggetto della canzone, il marginale. La canzone di Enzo arrivò prima in Hit Parade non perché accantonò con furbizia commerciale il contenuto politico, ma perché lo esaltò riscattandolo dall'anedotica e rendendolo quotidiano e riconoscibile qui e in noi e non in Congo. E mi sembra che sia un'analisi estremamente centrata. Dell'album Vengo Anch'io, No Tu No, che praticamente portò al successo Iannacci, vi voglio far ascoltare non questa che è stata troppo suonata e troppo nota, bensì un pezzo che si chiama La disperazione della pietà, che mostra, dice sempre Manfredi, lo sdoppiamento di Enzo. Da una parte la canzone, nell'elencazione di una serie impressionante di casi di sfiga cronica e comica e che annuncia il capolavoro Quelli che. Dall'altra è tutta avvolta nel patetismo, nella tristezza e persino nella preghiera. È una canzone abbastanza sconosciuta in cui le parole evidentemente hanno la meglio sulla musica, ma che proprio per questo vale la pena di essere ascoltata con molta attenzione. Signore, abbiate pietà di quelli che vanno in tram e nel lungo tragitto sognano automobili, appartamenti. Ma abbiate anche pietà di quelli che guidano l'automobile, sfidando la città aggremita, semovente di sonnambuli. Abbiate molta pietà del ragazzo mingherlino e poeta, che di suo ha solo le costole e l'innamorata bassina, ma abbiate maggior pietà dello sportivo, colosso impavido e forte, e che si avvia lottando, remando, nuotando alla morte. Signore, abbiate pietà, pietà, pietà, pietà, Signore. Abbiate immensa pietà dei musicanti da caffè, che sono i virtuosi della loro tristezza e solitudine, ma abbiatene ancor più di quelli che cercano il silenzio e subito cade su loro una romanza della Tosca. Nella vostra pietà non dimenticate i poveri che arricchirono e per i quali il suicidio è ancora la soluzione più dolce, ma abbiate vera pietà dei ricchi che impoverirono e diventano eroi e alla santa povertà danno un'aria grande. Signore, abbiate pietà, pietà, pietà, pietà, Signore. Abbiate pietà dei barbieri in genere e dei parrucchieri, effeminati dal mestiere ma umili nelle carezze, ma abbiate maggior pietà di quelli e si tagliano i capelli. Che attesa, che angoscia, che cosa avvilente, mio Dio. Abbiate pietà degli uomini utili, dei dentisti, che soffrono di utilità e vivono per far soffrire. Ma abbiate gran pietà dei veterinari e dei farmacisti, che molto bramerebbero essere medici. Oh Signore, Signore, abbiate pietà, pietà, pietà, pietà, Signore. Abbiate pietà delle donne separate legalmente, che in esse misteriosamente si riforma la verginità. Ma abbiate anche più pietà delle donne cosiddette sposate, che si sacrificano e si semplificano per niente. Abbiate immensa pietà degli uomini pubblici, specialmente dei politici, per la loquela facile, l'occhio lucido, la sicurezza del gesto, ma abbiate profonda pietà dei loro servi, umili e parenti. Fate, Signore, che d'essi non nascono altri fonometri. Signore, abbiate pietà, pietà, pietà, pietà, Signore. Signore, abbiate pietà, pietà, pietà, pietà, Signore. Signore, abbiate pietà. Molto bella questa, è pressoché sconosciuta, e dallo stesso album vi faccio ascoltare anche la prossima, Hai pensato mai? Hai pensato mai ai fiori quando sono tanti e pieni di colori, coriandoli sull'erba? Alle nuvole, hai pensato mai, leggere, bianche, rosa o nere, a strisce in mezzo al cielo, scalini di bambagia, tu ci hai pensato mai? Spiaggia, si distende un poco, poi ritorna a mare. Hai pensato mai alle stelle fatte con un ago su un cielo tutto di carta? E a tante cose ancora, e senti, scusami, hai pensato mai a me? Decisamente dei pezzi veramente diversi dalla canzone Vengo anch'io, che dà il titolo all'album e che aveva evidentemente illuso i compratori di trovare un Iannacci assolutamente spensierato, del tipo portava scarpe da tennis, mentre invece in questo LP comincia a rivelarsi per quello che è veramente un autore, che è anche un poeta per molti versi, giocando anche sull'ambiguità del termine, evidentemente. L'album successivo è in parte una continuazione di questo. Alcuni pezzi sono appunto di tipo patetico, a volte anche manierato, e altri invece percorrono il seguente, specialmente quelli scritti in collaborazione con Conte e con Cocchi e Renato, che tendono invece a recuperare il lato ironico, divertente di Iannacci. Inizio col farvi ascoltare appunto dell'album successivo, che si chiama La mia gente, il pezzo omonimo, che ha alcuni caratteri in comune con La disperazione della pietà, dove la preghiera, o meglio il canto, diventa praticamente un fatto corale. La mia gente muore, la mia gente muore, nessuno se ne accorge. Io sto a guardare fuori, fuori che piove, e di questo morire non ne voglio capire. La mia gente muore, la mia gente muore, e nessuno se ne accorge. Li ha lasciati accoppare dietro a una ciminiera, gli avevano detto che era l'ultima sera. Sì, ma tu che con la tua automobile hai scambiato la vita per una bella donna sfiorita, ricordati che c'è ancora qualcuno che aspetta la filovia, e quando l'ha presa tira fuori un sorriso, perché ormai l'ha convinto che andrà in paradiso. La mia gente canta, la mia gente canta, e nessuno se ne accorge. Io sto a ascoltare ma non capisco le parole, e allora di rabbia alzo il volume della radio. Paraparara, papara, papà, alzo il volume della radio. Paraparara, papara, papà, e canto con lei. Paraparara, papara, papà, e canto con lei contro la mia gente. Paraparara, papara, papà, contro la mia gente. Dallo stesso album, quella che Manfredi giudica la migliore canzone di questo periodo di Iannacci si chiama Il Duomo di Milano. Sparge il bancone dolci lacrime d'addio, quel giovanotto malato di ricchezza ed il garzone asciuga ad una, e a casa la sera se ne innamora. Anch'io nella sua tomba l'acqua del mio canale. Chiuso nella sua tomba, l'acqua del mio canale. S'è lamentato una volta, una volta sola, quando qualcuno l'ha percosso con una frusta di giornali. C'è ancora chi pulisce con l'alcol la sua vetrina. C'è ancora chi pulisce con l'alcol la sua vetrina. Ma non risponde più al tuo saluto, perché ha cambiato il cervello, perché t'han cambiato il cervello. In via Lomellina, in Lomellina, il Duomo di Milano è pieno d'acqua piovana. Ce l'han portata con gli ombrelli, ce l'han portata con i pianti, ce l'han portata con i pianti per la redenzione delle puttane. Io rimarrei anche legato a questo tipo di canzoni, però siccome questa è una puntata di cabaret che va replicata il sabato, voglio chiuderla con due pezzi un pochino più allegri. I due pezzi un pochino più allegri sono quelli finali a questo album La mia gente, e precisamente Il piantatore di pellame di Iannacci, Ponzoni e Pozzetto, e Meschio e nuvole di Conte Pallavicini. Uno, due, tre, quattro. Questa è la storia del piantatore di pellame, che arriva e spiega tutto così. Il piantatore di pellame era infelice perché lui non piantava il caffè, perché cresceva da sé. Pensarci bene, lì vicino c'era molto da far, lui confinava con una piantagione di bar. Il piantatore di pellame un giorno si innamorò di una ragazza però che coltivava palto. Il piantatore di pellame fu felice perché mentre le offriva il caffè entra il suo cane di nome Bill. Ah, belli assati per i pelos, va l'America in valora, balla balla col fostrat, quasi rete per Mazzola. Uno, due, tre. Il pomeriggio pomeriggio ormai passò, lui restò triste perché la piantatrice di Paltò non gli beveva il caffè. Il piantatore di Pellame allora le chiese il perché e lei rispose con freddo: non mi piace il caffè. Il piantatore di Pellame allora accese il palo, le disse: quando avrà caldo tolga pure il paltò. E lei per sempre se n'è andata e lui è felice perché si beve entrambi i caffè con il suo cane di nome P. Vali e sali, vali fels, va l'America in malora, balla balla col postrò, bella giovane pulita, bevi il brodo con le dita, la la la la la la la la la la la la la la la la. Sì. La prossima, Messico e Nuvola, è del 70 ed è di Paolo Conte. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando, meglio star qui seduto a guardare il vino che butto giù. Messico e Nuvole, tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Ho Messico e Nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore che c'è sì, ma forse no, no. Queste sono situazioni di contrabbando. Sembra giusto neanche in Messico, ma perché? Messico è Nuvole, il tempo passa sull'America, e il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico è Nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. Torno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei, che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Queste sono situazioni di contrabbando. Si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e Nuvole, il tempo passa sull'America, il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. A Messico e Nuvole, la faccia triste dell'America, il vento insiste con l'armonica, che voglia di piangere. A Messico e Nuvole. E con questa canzone di Iannacci si chiude anche l'odierna puntata di Cabaret. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda tutti i mercoledì dalle ore 16 alle 16.30 e viene replicata il sabato dalle 21 alle 21.30. A risentirci e senz'altro mando la sigla. What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I